Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 9 minuti, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, una puntata particolarmente ricca. Torneremo naturalmente sui temi del decreto sviluppo, come è naturale. Avremo un'intervista al ministro Renato Brunetta, col quale parleremo del fatto che lunedì parte il forum PA, il forum della pubblica amministrazione, e però tratteremo anche il tema del decreto sviluppo. E poi ci soffermeremo sull'aspetto forse più popolare e che sta facendo discutere nella giornata di oggi, che è la questione della concessione novantennale per le spiagge, che, come sapete e come vi hanno raccontato i nostri giornali radio, sta creando qualche perplessità a Bruxelles, che peraltro ci aveva già messo sotto procedura di infrazione per la precedente disciplina che riguardava le concessioni sulle spiagge. In questo caso Bruxelles, questo è bene chiarirlo subito, non è interessata alla questione se in questo modo si privatizzino le spiagge oppure no, è interessata ad altro, è interessata al profilo della concorrenza, ed è su questo che ragiona dicendo, insomma, una concessione lunga 90 anni di fatto blocca la concorrenza, perché blocca l'accesso di altri operatori sul mercato. Torneremo sul tema, come ovvio, dell'assise di Confindustria ci sarà domani a Bergamo. Proseguiremo il nostro ciclo di interviste e avremo anche un'intervista col direttore del Centro Studi di Confindustria. Questo e anche altro in questa puntata di Focus Economia, nella quale, come sempre, parleremo anche di mercati. Oggi in parziale ripresa, c'è da dire che la settimana non è stata per nulla positiva. Il FTSE MIB comunque guadagna l'1,12% in questo momento, il FTSE Share l'1,06%, Francoforte guadagna 1,5%, e bene vanno le cose anche a Wall Street, nonostante i dati sull'occupazione non siano stati sono stati in realtà positivi, però è in crescita la disoccupazione. Iniziamo dalle notizie in breve di questa giornata. (349) 238 6666 naturalmente è il numero per intervenire in diretta via SMS. Partiamo dalle materie prime. Come sempre, hanno limitato il calo nella giornata di oggi, o meglio, si sono ripresi lievemente le materie prime. Appunto, l'oro ha limitato il calo a $1,485,60 l'oncia. Il petrolio ha invertito rotta a New York, più 1,5% a $101,32, ma c'è da dire che ieri ha preso una bella bastonata. Si diceva degli Stati Uniti, 244.000 nuovi posti di lavoro, il tasso di disoccupazione è salito al 9%, in particolare il settore privato ha creato 268.000 posti di lavoro, nel settore pubblico ce ne sono 24.000 in meno. In realtà questo dei posti di lavoro è l'aumento maggiore da 11 mesi, tra l'altro. Per rimanere in America c'è un'operazione molto importante, un'operazione finanziaria molto importante. Il miliardario di origine russe Len Blavatnik ha acquistato la Warner Music Group per $3,3 miliardi. Il premio è del 4,4% rispetto alla chiusura di giovedì. Veniamo all'Europa, iniziando dall'Euribor, che stiamo monitorando da presso in questi giorni, dopo le decisioni della Banca Centrale Europea del mese scorso e la decisione di stare fermi almeno per questo mese. È sceso all'1,419%, il primo calo dal 15 marzo. Trichet dice: restiamo in modalità rialzo dei tassi, ma molti hanno comunque interpretato le parole di ieri del presidente della Banca Centrale Europea come un rinvio del nuovo rialzo. Quindi probabilmente non a giugno, ma a luglio. Nel frattempo apprendiamo che si fa più difficile l'appoggio della Finlandia al piano di salvataggio del Portogallo, perché un partito della coalizione di governo si è ritirato dal gruppo di lavoro parlamentare incaricato di creare il consenso. E però andiamo in Germania, la produzione industriale ha fatto segnare un più 0,7% a marzo, superiore alle attese che erano per mezzo punto percentuale. Su base annua la produzione vede un rialzo dell'11,2%, chissà, forse è anche per questo che, forse anche sulla base di questi dati che continuano ad arrivare dalla Germania, che possiamo rispondere all'ascoltatore che ci chiede perché il DAX è andato assai meglio del FTSE MIB in quest'ultimo periodo. Comunque non ha mai raggiunto il massimo del 2000, il DAX è un po' più vicino. Un po' di confusione invece dalla Germania sulle comunicazioni che riguardano la possibile nomina di Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea. Perché? Perché il ministro dell'economia francese Christine Lagarde dice che il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble è favorevole alla nomina di Draghi. E però il portavoce di un altro ministro economico tedesco, proprio del ministro Schäuble, Martin Kotthaus, dice che il governo tedesco si pronuncerà a suo tempo. Da quello che so ci sono ancora vari candidati, ma non al momento, però non ci sono riserve sul governatore della Banca d'Italia, insomma, quindi qualche indicazione discretamente positiva, anche se secondo indiscrezioni di stampa Angela Merkel lo preferirebbe alla guida del Fondo Monetario Internazionale, chissà. Sul fronte Italia, la manovra della quale si parla, il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani dice che non ritiene certo che vi sia alcuna manovra aggiuntiva, in ogni caso la discussione sarebbe meglio farla a luglio e non a maggio. E poi ci si prepara appunto all'assise di Confindustria, parla la presidente degli industriali Emma Marcegaglia: non abdicheremo al ruolo di criticare le cose che non ci piacciono e di dire quello che pensiamo, dice Marcegaglia, siamo una voce libera e indipendente e siamo gelosi della nostra indipendenza, ma non vuol dire che non diremo cose chiare anche su di noi. E poi sentiamo invece il vicepresidente di Confindustria, con delega per le relazioni industriali, Alberto Bombassei, intervistato da Fernando Mancini di Radio Corri Il Sole 24 Ore, che parla del decreto sviluppo. Il giudizio è quello che abbiamo dato come Confindustria, è quello che direi abbastanza positivo, anche se francamente mi sembra la famosa frustata sia una frustatina, però è da interpretare, vedere come sarà nei dettagli, soprattutto per gli aiuti e per l'incentivazione del lavoro, dei nuovi posti di lavoro. Quindi ci sono dei passi che sono sicuramente positivi, anche se ritengo che si dovrebbe poter fare di più. E per quanto riguarda quello che potrebbe fare Confindustria per il governo, visto che finora è il governo che ha proposto? Rimandiamo tutto a domani con l'intervento della Presidente, che credo che darà la risposta più opportuna al Presidente del Consiglio, quindi sono qui anch'io per ascoltare, vediamo cosa si può fare. Non credo molto, ma credo che noi lo facciamo già quasi mensilmente quando versiamo le tasse o versiamo i nostri contributi, questo è il nostro contributo al Governo. Veniamo al primo argomento di giornata, non prima di non aver risposto, io ho risposto all'ascoltatore che via sms al 349-238-6666 ci chiede perché se gli occupati aumentano il tasso di disoccupazione aumenta anch'esso, molto probabilmente perché aumentano le persone che si mettono in cerca di lavoro. Veniamo appunto al primo argomento di giornata, che poi ci porterà a parlare del decreto sviluppo. Si apre a Roma il prossimo lunedì 9 maggio la 22esima edizione del Forum PA, l'appuntamento più importante per la pubblica amministrazione. Si conclude il 12 maggio. A questo proposito abbiamo intervistato il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta, partendo dalla riforma di settore, ma poi abbiamo anche toccato i temi appunto del decreto sviluppo. Io sono particolarmente ottimista, anche perché la cosiddetta riforma della pubblica amministrazione in realtà sono tre. Una è il cosiddetto decreto legislativo 150 che riguarda merito, trasparenza, valutazione, produttività, azione collettiva, che è in completa implementazione in tutte le sue varie fasi, e questo è un pezzo. Il secondo pezzo, che si chiama ICT, ma può chiamarsi dal punto di vista normativo CAD, il codice dell'amministrazione digitale, è anch'esso un testo legislativo estremamente corposo. Tra l'altro il testo del CAD verrà pubblicato lunedì nella sua totalità sul Sole 24 Ore, per cui sarà conosciuto a livello di massa, e quella è praticamente la costituzione digitale del paese, e cioè gli obblighi delle amministrazioni, ma non solo delle amministrazioni, ad utilizzare le tecnologie digitali, che assieme a tutte le altre strategie contenute nel piano e-government 2012 fanno, come dire, l'altra gamba su cui si regge la riforma della pubblica amministrazione. Terza gamba è quella della semplificazione, che ha trovato proprio ieri nel decreto sviluppo un nuovo impulso di accelerazione per quanto riguarda privacy, per quanto riguarda norme antincendio, per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda appalti e così via. Naturalmente queste tre linee, queste tre gambe sono tutte e tre interconnesse. Ministro, verrei al tema del decreto sviluppo. Ieri nel corso della conferenza stampa, abbiamo fatto sentire anche in trasmissione la voce, lei è stato l'unico che ha fatto delle cifre. Può spiegarci un pochino meglio come nascono queste cifre? Tremonti giustamente vede la finanza pubblica. Io vedo i costi economici per le imprese. Se io dico che tutto il processo di semplificazione contenuto nel Piano Nazionale di Riforme comporta una riduzione di costi di circa 12 miliardi, non è ovviamente 12 miliardi in meno per la finanza pubblica, e Tremonti ha perfettamente ragione a mettere questo in chiaro, ma sono 12 miliardi in meno di costi per le famiglie e le imprese. Come si traducono questi in un circuito virtuoso? Se un'impresa ha risparmi, che so, in termini di minori oneri per la privacy di 900 milioni di euro, le sto dicendo una cifra esatta, cosa vuol dire? Che quell'impresa sarà più competitiva, avrà più profitti perché ha meno costi. Ministro, 900 milioni solo dal decreto sviluppo? Sì, certamente, certamente, sulla privacy, le sto dicendo privacy, sviluppo, decreto sviluppo, cioè minori oneri per le imprese in quanto ad adempimenti burocratici in tema di privacy. Allora, se tutto il sistema delle imprese ha un minori costi per 900 milioni di euro, cosa vuol dire questo? Che le imprese saranno più competitive, e se sono imprese più competitive vuol dire crescerà di più. Se cresce di più vuol dire che produce più reddito, se produce più reddito vuol dire che contribuisce in maniera incrementale alla crescita del PIL. Quindi la misura sulla privacy in termini di semplificazione fa aumentare il PIL. Se aumenta il PIL aumenta il gettito dal punto di vista fiscale, perché il paese cresce di più, si produce più ricchezza e c'è più gettito fiscale, e quindi questo vuol dire più crescita, più ricchezza, ma anche più gettito, e quindi vuol dire miglioramento dei conti pubblici. Ministro, una domanda, tanto da appunto rappresentante del governo quanto da economista. Ci chiedono spesso, tanto gli ascoltatori quanto gli imprenditori, ma insomma, come si fa a fare sviluppo senza mettere nemmeno un quattrino? Insomma, si riesce a dare una frustata all'economia in questo modo? Ci sono molte perplessità da questo lato. Non è detto, perché spesso troppi soldi fanno male all'economia, troppi cattivi incentivi fanno male al mercato. Lo Stato si misura sia in termini di pressione fiscale, certamente, del tema che lei evoca, sia in termini di pressione, o meglio oppressione burocratica regolativa, che spesso sono due facce della stessa medaglia. Oggi, bisogna dirlo con molta chiarezza e onestà, noi non abbiamo le risorse per alleggerire la pressione fiscale, o ne abbiamo molto poche, che pure è cosa che va fatta e sarà fatta, mentre abbiamo tutto lo spazio, enorme spazio, per alleggerire la pressione, o meglio l'oppressione burocratica amministrativa. E guardi che la pressione burocratica amministrativa vale altrettanto la pressione o l'oppressione fiscale. Per cui in questo decreto non viene fatto la scelta di alleggerire in maniera mai vista la pressione burocratica amministrativa per dare appunto uno spazio maggiore di crescita alle famiglie e alle imprese. Vede, 12 miliardi di euro di minor pressione burocratica amministrativa, come l'ho spiegato prima, in termini cioè di minori costi, equivalgono quasi a 3 punti di IRPEF in termini di riduzione. Ecco, è come se avessimo fatto con questa, in quest'anno, tutto compreso, le cose che abbiamo fatto nei mesi scorsi, quelle del decreto e quelle che ci accingiamo a fare, è come se avessimo diminuito di 3 punti l'IRPEF. Ecco, naturalmente le imprese lo vedono un po' meno perché i costi sono, però non dico neanche alla lunga, ma alla breve si accorgeranno tutti che in tema di antincendi, inquinamenti, appalti, privacy e così via, la vita delle imprese sarà molto più semplice e questo vuol dire minori costi. È come se noi avessimo diminuito le tasse e ripeto, non è un contentino, è roba seria. Sarà come ci dice il ministro Brunetta, leggo perplessità nei vostri messaggi, messaggio di Ulisse che non possiamo leggere perché siamo in fascia protetta, quello di Umberto che possiamo leggere sono in parte, chiede di tagliare le tasse, il resto non lo leggiamo perché invece siamo in par condicio e chi come Dario da Vicenza ci dice solo chiacchiere. Adesso però affrontiamo un altro tema, comunque fatto sai questi provvedimenti ci sono sul piatto e alla fine vedremo che effetto avranno. Del resto, da un lato Brunetta ha ragione sicuramente sul fatto che non ci sono i soldi al momento per tagliare le tasse. Veniamo all'altro tema che riguarda sempre il decreto sviluppo, ossia le spiagge. A parlare oggi è stata la Commissione europea, che si dice molto sorpresa perché il provvedimento non sarebbe conforme con le regole del mercato unico europeo. Che cosa prevede, che cosa prevederebbe questo provvedimento? Molti dettagli sia su questo che su altri li trovate tra l'altro ancora sul Sole 24 Ore di oggi, che come vi abbiamo raccontato ieri ha dedicato ampio spazio. La norma prevede l'attribuzione di un diritto di superficie della durata di 90 anni. Formalmente la proprietà rimane pubblica, il diritto si estende alle costruzioni sull'arenile fatti salvi i vincoli ambientali e urbanistici. Chi ottiene il diritto dovrà pagare un canone che nelle intenzioni del ministro Tremonti dovrà essere a prezzi di mercato. Negli incassi finiranno in un fondo del tesoro per essere riassegnati. Saluto il professor Giuliano Noci, responsabile area imprese MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Buonasera, professor Noci. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, l'obiezione di Bruxelles, che peraltro, come dicevamo, ci aveva già messo in procedura di infrazione, già ci aveva messo in infrazione per la precedente normativa che prevedeva una concessione di 6 anni senza che questa concessione fosse messa all'asta, perché questo è il punto fondamentale considerato da Bruxelles, Bruxelles mi sembra che abbia in parte ragione, insomma 90 anni dal punto di vista della concorrenza la blocca un pochino. Ma direi che i 90 anni sono un'epoca quasi geologica, nel senso che i progetti strategici ormai sono monitorati nell'ordine di necessità di un ritorno nell'arco di pochi anni. 90 anni significa sigillare la possibilità di dare spazio alla libera concorrenza in un'area, quindi non occorre essere esperti giuristi per ritenere che l'Unione Europea abbia assolutamente ragione. Siamo, dal mio punto di vista, assolutamente fuori da quelle che sono le logiche del libero mercato e della libera competizione. Allora, c'è però un'altra questione, che è quella che sottolineano gli esercenti, che naturalmente fanno il loro gioco e questo è naturale. Dicono, insomma, noi in questi anni su queste superfici abbiamo fatto dei lavori, abbiamo in parte migliorato, in parte peggiorato, diciamocelo, però insomma abbiamo apportato quelle che possono essere definite delle migliorie. Magari c'è un ristorante costruito da questi esercenti, magari c'è un bar, magari ci sono delle altre strutture, che so, magari degli ombrelloni fissi, insomma, in qualche modo questo va regolato, professore. Sì, però abbiamo probabilmente tanti imprenditori e manager all'ascolto. Mi dica lei se li manderei tutti a scuola, se i commercianti ragionano in questa prospettiva. Cioè, sono necessari 90 anni per far ritornare un investimento? In ambito industriale, quando un'impresa decide di fare un nuovo insediamento produttivo, anche con investimenti significativi, non può permettersi di avere un ritorno sull'investimento che va oltre 10 anni. Quindi decisamente i commercianti, certamente molto legittimamente, cercano di portare l'acqua al loro mulino. Direi che però veramente 90 anni suona come un qualcosa che non è coerente con la dinamica dei tempi. Ricordo i radioascoltatori che aziende come Facebook 5 anni fa non esistevano, in 5 anni hanno una capitalizzazione di 120 miliardi di dollari, magari fra 5 anni non esisteranno più se non si sanno rinnovare. Quindi pensiamo che cosa voglia dire questo vincolo sui 90 anni rispetto a quella che è la dinamica dei tempi attuali. Allora, sicuramente ci possiamo dichiarare d'accordo dal lato dei canoni. Se pensate, giusto per citare alcuni dati, che alcuni casi celebri come lo stabilimento Twiga di Marina di Pietrasanta, quello di Briatore per intenderci, che paga un canone di 4.500 euro l'anno, 4.500 l'anno, attenzione, abbiamo detto non al mese, e incassa 3,3 milioni di euro all'anno. Il Saporete di Sabà, Audi a canone da 5.400, incassi da 880.000 euro l'anno, questo per dare un'indicazione, quindi i canoni andranno sicuramente adeguati. C'è un altro tema sul quale volevo coinvolgerla, professore, e sono le parole del ministro dell'ambiente, Stefania Prestigiacomo. Dice: non abbiamo regalato le spiagge ai privati, perché poi c'è questo mito della privatizzazione, comunque una privatizzazione non è, insomma, abbiamo fatto una norma di tutela del nostro territorio per evitare che vengano occupare le nostre spiagge imprese straniere, laddove abbiamo una tradizione, una presenza storica di operatori italiani. E ritorniamo sempre là, l'italianità. Credo che l'italianità non sia di per sé, cioè in un'economia globale, che cosa sia l'italianità? Anzi, molte ricerche hanno evidenziato come in realtà l'Italia soffra di una strutturale carenza di capitali che vengono dall'estero, che possono arricchire sia da un punto di vista finanziario che in termini di contributi di idee il nostro paese e lo sviluppo economico della nostra penisola. Quindi io direi che l'italianità in questo momento è un falso valore, rappresenta una modalità forse per cercare di congelare le esise. Quindi io darei invece molto più spazio al libero mercato, auspicando che entrino investimenti stranieri e che portino un nuovo fermento, così come le nostre imprese devono guardare all'estero e non semplicemente esportare, ma andare a fare veri e propri investimenti strategici in quelli che sono i mercati che crescono di più. Allora, le imprese tra l'altro temono, professore, io la terrei ancora un attimo in linea, abbiamo una breve pausa, sono 5 minuti circa, e poi un'ultima domanda per lei, perché l'altra cosa che le imprese temono con l'ingresso di stranieri è l'ingresso di denaro riciclato. Questo è un allarme che è arrivato da qualche parte, dalle imprese di settore, dicono insomma stanno comprando i russi e chissà da dove arrivano questi soldi. Questa domanda per subito dopo la pausa. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, stavamo parlando di spiagge, adesso leggeremo anche un paio di messaggi. Prima vorrei chiudere col professor Noci del Politecnico di Milano a proposito della questione riciclaggio. Intravede rischi di questo tipo lei, professore? Ma guardi, mi permetta, no, tre considerazioni. La prima, mi chiedo se il rischio sia differenziale rispetto a un eventuale investitore italiano. Secondo me no. Secondo, lasciare libera la volontà degli imprenditori, anche stranieri, di investire e portare capitali genera benefici per tutto l'indotto. Quindi una spiaggia che dove si investe anche con investimenti stranieri può creare benefici per hotel e quant'altro e tutte le attività collaterali. Terza considerazione, magari investimenti stranieri possono permetterci di attrarre quei turisti che vengono da lontano, esteri, che purtroppo mancano così tanto all'economia del nostro paese, a un turismo che pesa ancora il 10% del prodotto interno lordo e che auspichiamo cresca rispetto a una situazione che è stagnante in quest'ultimo decennio. Grazie a Giuliano Noci, responsabile aeree imprese del MIP, la Business School del Politecnico di Milano, e buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, a Daniele da Follonica, che evidentemente è un operatore di settore e ci chiede perché non abbiamo fatto parlare oggi gli operatori, semplicemente perché abbiamo voluto un'opinione terza, altrimenti avremmo chiamato gli operatori e magari gli ambientalisti, e quindi abbiamo chiamato un economista. Aggiungiamo che non abbiamo parlato di privatizzazione, come ci scrive erroneamente qualcuno. Abbiamo detto esplicitamente che si trattava di una concessione. Anzi, ho negato che fosse una privatizzazione non più tardi di 8 minuti fa. È la borsa. Guido Maurino, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, quadro di giornata finalmente viene da dire positivo. Sì, è un quadro di giornata positivo, soprattutto grazie al dato sull'occupazione americana. Negli Stati Uniti sono stati creati 244.000 posti di lavoro, ben oltre le attese degli analisti che puntavano su 175.000. Questo dato in là ad una serie di acquisti sui listini europei nel pomeriggio, che hanno portato appunto a una chiusura positiva per i listini del vecchio continente. Anche Milano ha chiuso con il FTSE MIB in rialzo dello 0,98%, il FTSE Ushare dello 0,95%, in linea un po' con quello che hanno fatto le altre principali piazze. Allora, su tutti domina oggi Tenaris, un più 5,25%, ma ottimamente anche Buzzi Unicem. Sì, per quello che riguarda Tenaris sono stati i conti a spingere il titolo. Oggi Tenaris ha guadagnato oltre il 5% grazie appunto a questi risultati relativi al primo trimestre, che hanno mostrato un più 42% per il giro d'affari complessivo a 2,3 miliardi e un progresso del 46% a 324 milioni di dollari per quello che riguarda l'utile netto. Anche le previsioni per il 2011 fornite dalla società sono in crescita rispetto al 2010, per cui insomma il mercato ha premiato questo fattore. Per quello che riguarda Buzzi Unicem, è stato il settore delle costruzioni che oggi è andato bene, approfittando dei conti di Italcementi, che sono stati conti molto positivi, che hanno visto un ritorno all'utile dopo la perdita registrata nel primo trimestre del 2010, per cui Buzzi Unicem, diciamo, si è un po' mossa in scia al settore. Restiamo sui titoli in positivo, tra questi c'è un bancario che è la Popolare di Milano, è il terzo miglior titolo del FTSE MIB, un più 2,62%. Sì, oggi la Banca Popolare di Milano ha approfittato del rialzo dell'outlook da negativo a stabile, con la conferma del rating ad ameno da parte dell'agenzia di rating, appunto, Standard & Poor's. Questa notizia è stata accompagnata anche dalla possibile revisione del prezzo del prestito convertendo. Si parla di un abbassamento drastico del prezzo di conversione di questa obbligazione, che potrebbe andare a incidere anche sull'aumento di capitale. La Banca Popolare di Milano ha annunciato un aumento di capitale fino a 1,2 miliardi. Se il prezzo del prestito convertendo venisse abbassato, può darsi che la cifra sia leggermente inferiore, per cui insomma il mercato ha premiato questo aspetto. Allora, positiva anche Azimut, un più 2,17%, Snam Rete Gas più 1,86%, Diasorin più 1,82%, bene anche oggi. Sì, Diasorin bene anche oggi grazie a un'alleanza che la società ha annunciato con una società giapponese, Precision System Science, per realizzare una nuova apparecchiatura per la diagnostica molecolare, e subito dopo questa notizia il titolo aveva guadagnato anche oltre 2 punti percentuali e comunque chiuso positivo a più 1,81%. Allora, bene, Fonsai, Autogrill e Unicredit guadagnano l'1,8 circa tutte quante, Finmeccanica 1,5, Fiat altrettanto, così come Ansaldo, Impregilo, Campari poco meno, l'1,44 così come Ubibanca, l'1,3 per il Monte dei Paschi, il Banco Popolare e Luxottica, Mediolanum e Mediobanca e Mediaset l'1,2%, Pirelli l'1,16%. Ecco, tra i titoli negativi troviamo tre energetici, sono Enel Green Power, Enel e A2A. Sì, diciamo che per tutti e tre la ragione è un po' la stessa, è legata al prezzo del petrolio che era sceso molto nei giorni scorsi, anche se oggi ha riguadagnato quota $100 al barile, per cui insomma questo calo del prezzo del petrolio è andato a incidere anche su Enel, A2A e Enel Green Power, perché comunque gli operatori considerano che questo abbassamento si ripercuoterà anche su di loro. Beh, è curioso che si ripercuota su Enel Green Power questa cosa, però Guido, sì, converrai. Per quello che riguarda Enel Green Power c'è anche un po' l'aspetto delle nuove norme per le rinnovabili, eccetera, anche questo sicuramente ha un impatto. Certo, allora abbiamo una breve pausa per la viabilità, la diamo e poi un altro paio di titoli da chiederti. Allora, in realtà l'ultimo titolo dei quali ti voglio chiedere è un titolo minore, quello di Coin. Sì, Coin oggi è andata molto bene in borsa, ha fatto più 4,95%, secondo indiscrezioni di stampa, addirittura d'arrivo l'intesa per cedere la società dall'attuale azionista di maggioranza, il fondo di private equity PAI, a un altro fondo di private equity BC Partners. Questa cessione dovrebbe far scattare un'OPA obbligatoria sulla società e insomma dopo mesi e mesi di trattative Coin sta per finalmente per passare di proprietà. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore e grazie a Guido Maurino nella fattispecie. Buonasera Guido. Buonasera, grazie. Per chiudere il quadro generali su dell'1,01 l'abbiamo detto, Telecom Italia in guadagno dello 0,95%, oggi i dati nel trimestre, l'utile è sceso dell'8,7%, i ricavi sono cresciuti del 10,3%, TOTS sale dello 0,9%, dello 0,8% Prismia e Eterna, Exor dello 0,7%, Eni altrettanto, ST Microelectronics dello 0,38%, Parmalat dello 0,23%, Lottomatica in perfetto pareggio. Allora, veniamo all'altro tema di giornata, ossia le assise di Confindustria di domani. Lo faremo tra un attimo, intanto qualche SMS, ancora sulla vicenda delle spiagge naturalmente. Ci chiedete dove vive questo economista, i russi verrebbero a Rimini se ci fossero bagnini russi, e vi riferite alle parole del professor Giuliano Noci, ma certamente non è questo il ragionamento, cioè non c'entrano i bagnini russi, c'entra il fatto che ovviamente se voi compraste un albergo in un paese estero pubblicizzereste presso i cittadini italiani il vostro albergo, magari con più efficacia. E ancora, ci scrivete che le dichiarazioni del professor Noci sono scandalose, non riusciamo a capire sotto che aspetto. Ci sono anche tanti messaggi a favore del discorso che abbiamo sentito dal professor Noci. Bene, allora, parliamo dunque dell'assise di Confindustria. Domani, 7 maggio, a Bergamo, appunto le assise confederali, intitolate l'Italia che vogliamo, per discutere dei nodi che bloccano l'economia del paese e formulare proposte per superarli. Come vi abbiamo ampiamente raccontato, c'è un solo precedente per questa assise a... che tra l'altro è a porte chiuse, che risale al 92, quando Giuliano Amato varò una manovra da 90.000 miliardi di lire. Tra l'altro è stato presentato oggi in occasione del Consiglio Centrale della Piccola Industria e Confindustria in preparazione delle assise confederali di domani il volume edito dal Sole 24 Ore L'Italia che non cresce, raccolta di inchieste e articoli sui fattori che bloccano la nostra economia e che sarà in edicola da lunedì prossimo. Torneremo a parlarne poi tra poco anche con Luca Paolazzi. Io saluto Antonio Alunni, vicepresidente della Piccola Industria di Confindustria. Buonasera. Buonasera, dottore. Ed è anche, tra l'altro, presidente del Polo Aerospaziale Umbro, che raccoglie una trentina di aziende che fanno, insomma, grandi cose oggettivamente per l'industria aerospaziale. Proprio per questo che con lui vogliamo affrontare il tema dell'innovazione e della ricerca, della necessità di spinta in questa direzione. Spesso si è detto che dal punto di vista dei finanziamenti pubblici oggettivamente c'è poco. Oggettivamente però Alunni, poco si può fare in questa condizione finanziaria. Ma guardi, io da questo punto di vista ovviamente non posso entrare nel merito del come. È evidente che però c'è un problema. Lo sviluppo è legato in modo imprescindibile alla ricerca e all'innovazione. Questo ormai è un dato che tutti condividono e che tutti affermano di volta in volta. È evidente che anche il nuovo decreto per lo sviluppo, da poco presentato dal governo, risulta da questo punto di vista del tutto insufficiente. Pensare per un paese come il nostro, di forte origine e tradizione manifatturiera, 100 milioni, no, come un ammontare utile a sostenere un rafforzamento nella ricerca, è, penso, un obiettivo mancato, insomma. Siamo molto delusi da questo punto di vista. E questo è interessante. Le vorrei chiedere, Alunni, quali sono le criticità che identificate per aziende come le vostre? Perché spesso parliamo delle aziende italiane che hanno produzioni che possono essere sovrapponibili a quelle di altri paesi. Nel vostro caso voi fate produzioni molto specializzate per aziende come la Boeing, lavorate addirittura per la NASA, insomma intendo il vostro settore, quello del polo aerospaziale Umbro. Vorrei capire quali sono i punti di sofferenza vostri. Ma i punti di sofferenza oggi, se parliamo sempre sul tema dell'innovazione, è appunto la mancanza di un quadro organico sul quale lavorare. Nel senso, siamo ormai abituati purtroppo da tempo a un cambiamento repentino delle strategie da parte del governo e soprattutto a una mancanza di visibilità nel medio termine. Lei mi insegna che fare ricerca, fare innovazione presuppone alla base una visibilità chiara in termini temporali, nonché anche una conoscenza certa delle risorse che vengono messe a disposizione. Questo manca oggi del tutto. Un altro tema importante, il bonus che fa parte del decreto per lo sviluppo, riguarda la ricerca. Non si parla di innovazione, ad esempio. Questo è un tema fondamentale soprattutto per le piccole e medie imprese. Ossia ricerca è precondizione, ma dopo ovviamente se non c'è un'attività volta a supportare l'innovazione è nel prodotto, nel processo, nell'organizzazione, è come dire, manca una gamba importante su cui poter lavorare, quindi per noi questo è un tema critico e purtroppo sono anni che ormai navighiamo in un mare incerto, insomma, e questo sicuramente non aiuta, ma questo non significa che non si fa ricerca e innovazione. Questa si fa anche perché se non si facesse, francamente, sareste fuori dal mercato, insomma. Esatto, quindi sa, quando molte volte si addebita al mondo dell'impresa la mancanza di sensibilità da questo punto di vista, lo ritengo un tema sbagliato, perché se non ci fosse non saremmo competitivi e saremmo, come dire, mandati fuori dal mercato per le regole del mercato stesso. Purtroppo manca un disegno generale sul quale poter fare come dire, un passo, uno scatto avanti con molta più forza, con una velocità nettamente maggiore rispetto a quello che si può fare oggi. Ultima domanda che le voglio fare, le chiedo di essere piuttosto breve perché siamo quasi in chiusura di questa parte di Focus Economia, è in merito alla difficoltà che spesso denunciano aziende del vostro livello tecnologico a trovare personale adeguato, molto semplicemente ingegneri o anche solo operai specializzati di un certo livello. Ma questo è un altro tema delicatissimo. Purtroppo la scuola di ogni ordine e grado ha visto nel tempo, come dire, mettere sempre all'angolo quelle professioni che in realtà sono quelle che oggi servono e sono quelle che anche che creano più stabilità e più crescita in termini professionali ed economici. Su questo si sta lavorando molto, Confindustria ha sposato questo tema da anni e ci sono dei segnali di miglioramento, ma anche qui c'è molto da fare. Legame del mondo delle imprese con le scuole, ma non solo università, parlo delle medie superiori, insomma di tutte le di ordine e grado, e su questo però bisogna fare molto perché indubbiamente oggi c'è mancanza anche in una situazione di mercato che non è espansiva come oggi viviamo. Speriamo che questo delta venga colmato quanto prima. Grazie dunque ad Antonio Alunni, vicepresidente di Piccola Industria e Confindustria, per essere stato con noi e anche per questi chiarimenti. Torneremo a parlare delle assise di Confindustria tra poco con il rapporto che va a guardare un pochino di più all'interno dell'impresa e cerca di capire quali sono non solo le esigenze ma anche le vere e proprie criticità. Tra poco, subito dopo il giornale radio. Le 18, 8 minuti e 10 secondi, vi annuncio che tra poco trasmetteremo un'intervista che hanno realizzato i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Corriere del Sole 24 Ore con Giovanni Bazzoli, presidente di Intesa San Paolo. Abbiamo chiuso la prima parte parlando di industria e torniamo a parlare di industria. Come dicevamo, si è tenuto oggi a Bergamo il Consiglio centrale della piccola industria di Confindustria in preparazione delle assise confederali di domani. È stato presentato, come vi annunciamo, il volume edito dal Sole 24 Ore, L'Italia che non cresce, che è una raccolta di inchieste e articoli sui fattori che bloccano la nostra economia e che sarà in edicola, lo troverete in edicola da lunedì prossimo. È stato presentato anche il volume Costruire il futuro, le PMI protagoniste, realizzato dalla piccola industria di Confindustria, introduzione curata e rapporto curato dal direttore del centro studi di Confindustria Luca Paolazzi, col quale siamo in collegamento. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, c'è una parte sicuramente di contesto generale, ma soprattutto questo rapporto è un'analisi approfondita di quello che devono e vogliono fare le imprese e anche delle loro aspettative. Contesto generale, per esempio, da quel che avete raccolto, il 66,4% delle piccole e medie imprese dice che non basterà essere bravi imprenditori per avere successo, ma appunto ci vuole anche il contesto. Testo, ossia una politica che funzioni dal lato della crescita, no? L'esperienza che stiamo facendo nel mondo, non è solo in Italia, è che vincono i sistemi, non più soltanto le singole imprese, i sistemi di imprese e i sistemi paese. E quindi diciamo è tutta l'Italia che deve muoversi in direzione di una maggior crescita, crescita basata sull'innovazione, e per essere innovativi bisogna essere aperti al nuovo, al cambiamento, quindi adottare flessibilità, investire, assumersi dei rischi e condividere questi rischi e anche i risultati di questi rischi, anzitutto con i lavoratori, e c'è una grande disponibilità in questo senso. Per questo c'è bisogno di un governo e in generale di un sistema paese che sorregga il progetto della crescita e dell'innovazione. Allora, io devo dire che sono rimasto piuttosto colpito come giornalista dall'indicazione che avete avuto sul fronte degli ostacoli alla crescita, cioè quello che le imprese considerano un ostacolo alla propria crescita dimensionale. Sono stato colpito perché i temi sui quali di solito ci concentriamo sembrano passare in parte in secondo piano, perché in domanda risposta multipla gli ostacoli burocratici guadagnano il 27,8% delle risposte, gli ostacoli sindacali pochissimo, addirittura il 6,5% delle risposte. Il 48,5% insufficiente domanda, il 47,9% mancanza di capitali. È un segnale abbastanza forte. Io credo che diciamo il fatto che circa il 30% delle imprese indichi in ostacoli burocratici una delle ragioni della mancanza di crescita è comunque preoccupante, vuol dire che c'è un terzo di mancata crescita dovuto all'inefficienza della nostra burocrazia, mi sembra un fardello enorme. Detto questo, queste risposte vanno qualificate. Cosa significa insufficiente domanda in realtà in un mondo che cresce? Vuol dire due cose. La prima è che c'è una gran parte ancora delle imprese italiane poco internazionalizzata e che si rivolge soprattutto al mercato domestico, dove invece la domanda ristagna. E la seconda è che tante imprese di successo in realtà vivono dentro nicchie, e queste nicchie che lo stesso sono create attraverso innovazioni, cura della clientela, sono diciamo piccole e in queste nicchie hanno una quota di mercato già molto elevata, per cui è difficile espandersi dentro questa nicchia. La realtà, come emerge dai risultati che abbiamo fatto chiedendo alle imprese di successo che cosa stanno facendo, è che le imprese di successo stanno crescendo, continuano a crescere perché si spostano verso altre nicchie, applicano il loro sapere acquisito in quelle nicchie in altri ambiti. Quindi sta all'imprenditore superare questo ostacolo di insufficienza di domanda, di nuovo innovando. Mancanza di capitali, diciamo è noto l'atavica difficoltà del rapporto banche e imprese nel nostro paese, in generale c'è poco venture capital, c'è poco investimento da parte delle banche nell'immateriale, questo è vero, però è anche vero che le imprese sono poco propense ad aprirsi al capitale esterno, a far entrare diciamo soci diversi della famiglia, e questo è a sua volta un limite e crea appunto questa carenza di capitali. Quindi le due cose in qualche misura vanno virate, nel senso che l'insufficiente domanda è anche offerta carente, e la mancanza di capitali è una mancanza di ricerca di nuovi capitali, di capitali freschi. Sì, in un certo qual modo le imprese preferiscono autofinanziarsi per crescere anziché appunto far entrare nuovi soci o quotarsi in borsa, perché questo implica inevitabilmente qualcuno che, usiamo un'espressione un po' colorita, mette il naso negli affari dell'impresa, che spesso sono gli affari della famiglia, e questo diciamo però andava bene una volta come meccanismo di crescita del sistema paese, adesso diciamo va meno bene perché il mondo è diventato più grande in un certo qual modo, i mercati non sono più solo quelli europei vicini o quello americano, sono quelli cinesi, quelli indiani, per andare in quei mercati occorre una dimensione maggiore, per avere una dimensione maggiore bisogna fare investimenti anche importanti in reti distributive, in organizzazione, in ricerca, e per fare tutto questo occorrono più capitali, quindi è inevitabile che l'autofinanziamento non sia più sufficiente. Sì, allora riprenderemo poi questo discorso per parlare di crescita dimensionale delle imprese subito dopo la viabilità. Riprendiamo dalla questione della dimensione delle imprese, dalle vostre rilevazioni. Polazzi, sembrano emergere segnali positivi con un desiderio di aumentare dimensioni e fatturati piuttosto diffuso tra le imprese. Allora, distinguiamo, i risultati del focus group vengono dalle interviste a una piccola frazione molto qualificata, diciamo la creme delle imprese manifatturiere associate a Confindustria, e queste sono imprese che proprio aprendosi, proprio crescendo, proprio puntando alla crescita e alla conoscenza, non solo stanno superando rapidamente la crisi, ma già prima della crisi andavano bene. Questi sono gli esempi da seguire, sono gli esempi che vengono da imprenditori per gli imprenditori, è un linguaggio comune ed è questo un messaggio importante, perché non è l'accademia che si china sulle imprese e dice quello che cerca di insegnare agli imprenditori il loro mestiere, no, sono imprenditori che danno esempio ad altri imprenditori. Altra cosa è invece il sondaggio che abbiamo fatto presso le piccole e medie imprese associate a Confindustria, lì anche in realtà una piccola soltanto fetta delle imprese dice che la dimensione va bene così com'è, e una grande maggioranza ti dice che crescere è importante perché questo ti consente di fare più ricerca, ti consente di controllare meglio i mercati, soprattutto esteri, ti consente di avere un rapporto con la clientela migliore. Da questo però, diciamo, a crescere effettivamente con l'aggregazione, il passo ci sembra ancora lungo, perché diciamo una grossa fetta di queste imprese dice che non ha intenzione o non ha sperimentato, non ha intenzione di sperimentare esperienze di aggregazione, preferisce continuare il suo percorso da solo, invece diciamo di decidere che è meglio avere una fetta più piccola ma di una torta molto più grande, è meglio tenersi tutta la torta anche se piccolina. In chiusura la voglio riportare sui temi generali, perché c'è anche quell'introduzione generale alla quale avevamo accennato, dove ci è sembrato che possa prevalere una nota di pessimismo sul futuro dell'Italia. In realtà no, l'idea è che le imprese possono fare molto per aiutare il paese e aiutare se stesse. Sta al paese diciamo far leva su questa enorme capacità imprenditoriale, che in tutto il volume è riportato come diciamo un tesoro, una particolarità della nostra nazione. È chiaro che bisogna poi rimuovere gli ostacoli che stanno, come dicevamo all'inizio quando parlavamo della burocrazia, soprattutto in un'inefficienza della pubblica amministrazione, declinato in tutti i campi in cui questa opera. Si parla però di danni permanenti al tessuto produttivo italiano, insomma, è un'espressione forte. Ma parliamo della crisi, parliamo del crollo che è avvenuto, e questo è vero, siamo diciamo il paese che ha subito una delle peggiori flessioni di attività produttiva, il PIL è sceso complessivamente del 6,5%, la produzione industriale di oltre il 25% e tuttora la produzione industriale è di quasi il 17% sotto i livelli pre-crisi. E noi non vediamo una traiettoria nei ritmi di crescita che ci consenta di tornare, non dico ai livelli pre-crisi, e questo forse succederà nel 2015, quindi fra molto tempo, ma sicuramente non ci consente di tornare ai livelli che avremmo avuto se la crisi non ci fosse stata. Questo richiederebbe appunto uno slancio nuovo, puntare di più sull'innovazione, crederci, e questo paese ha dimostrato in passato di poterlo fare. Da questo punto di vista i danni possono essere rimediati. Grazie, grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, e buonasera. Buonasera a tutti. Allora, brevissimamente, c'è anche chi le imprese le premia, quelle più innovative, quelle che sono andate meglio, ed è un premio promosso da Tickmark, che è una società di revisione contabile indipendente. Saluto Lelio Bigogno, amministratore delegato della società di revisione contabile Tickmark. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora le chiedo, Bigogno, di descriverci questo premio, di raccontarcelo, ma molto brevemente, perché è arrivata questa intervista all'ultimo minuto dei colleghi, realizzata dai colleghi di Radio Core con Giovanni Bazzoli, e purtroppo i nostri tempi rimangono quelli e vorremmo farla ascoltare. Allora, ci dica in cosa consiste questo premio. Questo premio è stato da noi ideato e organizzato a partire dall'anno scorso, siamo alla seconda edizione e, come lei diceva correttamente in precedenza, è mirato a premiare quelle piccole e medie imprese che in questi ultimi due anni, quindi 2009 e 2010, hanno saputo battere la crisi attraverso alcuni dei fattori che lo stesso ospite precedente ho sentito citare, quindi innovazione, internazionalizzazione, ricerca e sviluppo e quant'altro. Possono partecipare tutte le imprese, società di capitali con un fatturato superiore ai 5 milioni di euro e che, dati di bilancio alla mano e con caratteristiche qualitative, quelle che elencavo poc'anzi, possano dimostrare di appunto aver superato questa difficile crisi. Esiste poi una giuria indipendente che giudica queste aziende. Quando dico indipendente, chiaramente intendo indipendente rispetto alla nostra organizzazione, perché in questa giuria ci sono professori universitari, giornalisti, esponenti del mondo della finanza, quindi una giuria molto qualificata che è poi quella che determina i 5 finalisti e il vincitore, che è quello che poi racchiude un po' tutte le caratteristiche principali. Allora, piccole e medie imprese in ascolto, se interessate, i siti sono www.premioletigri.com e www.tickmark.it, candidature fino al 15 maggio. Grazie a Lelio Bigogno, amministratore delegato di Tickmark, e buonasera. Buonasera. E adesso andiamo appunto all'intervista realizzata da CEO Condina con di Radio Core Sole 24 Ore con Giovanni Bazzoli, presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa San Paolo, col quale si parte dall'aumento di capitale. Il mio consigliere delegato, il dottor Passera, mi ha detto che riusciremo a anticipare i tempi, era previsto per giugno. Questo l'avvio dell'operazione, riusciamo a anticiparlo. E ha ragione di dire che è un'operazione importante perché si tratta di un aumento di capitale di 5 miliardi. Devo dire che il fatto che la che Banca San Paolo, Banca Intesa San Paolo, abbia deliberato questo aumento di capitale ha rappresentato un po' una svolta nel sistema, perché è a tutti chiaro che la Banca Intesa San Paolo, anche in base al programma triennale che ha presentato, era assolutamente in grado di ottemperare a tutte le richieste di patrimonializzazione richieste da Basilea III. Se abbiamo deciso ugualmente di fare l'aumento di capitale non è quindi per una situazione di necessità, ma perché vogliamo metterci in una condizione che ci consenta di giocare un ruolo primario in Europa. Praticamente tutte le fondazioni hanno già annunciato che sottoscriveranno l'aumento di capitale, insomma hanno dato la loro disponibilità informale. Zaleschi ha detto che non ha fondamentalmente la liquidità per sottoscrivere. Vedremo l'ingresso di qualche nuova fondazione. Ecco, prima di tutto mi lasci dire questo. No, io non credo che ci sia l'ingresso di nuove fondazioni. È già molto importante che le fondazioni presenti non sono solo le cinque più importanti, ma anche molte minori, si stiano orientando, a quanto mi risulta, a sottoscrivere l'aumento di capitale. Ma devo dire che è molto importante la decisione delle fondazioni. Anzi, dico di più, io mi sono definitivamente convinto dell'opportunità di questo aumento di capitale quando ho sentito che le fondazioni erano disponibili a farlo, perché questi sono soci per noi molto importanti, sono soci di medio-lungo periodo. Per carità, i fondi sono sempre molto importanti, però c'è una differenza chiara, evidente, tra un socio di lungo periodo e un fondo. Da questo punto di vista, il fatto che le fondazioni, solo le fondazioni maggiori rappresentano circa il 30% del capitale, avessero deciso di sottoscriverlo, è stata proprio la spinta che ci ha indotto a superare ogni esitazione al riguardo. In questa operazione chiederete, immagino, anche l'appoggio del retail, fondamentalmente dei piccoli risparmiatori. Sì, ma noi contiamo che, oltretutto, grazie a questo aumento di capitale, risulterà questo sempre più chiaramente dal piano, come si potrà, ripeto, vedere presto, è prevedibile anche la possibilità di una retribuzione adeguata del capitale. Un'ultima domanda su Parmalat. Oggi si scrive che Lactalis avrebbe insomma ci sarebbero dei contatti in corso per il finanziamento dell'operazione di Lactalis da parte di Intesa, Unicredito e Mediobanca. Al di là di questo, secondo lei il sistema d'Italia esce sconfitto dall'opa di Lactalis, oppure ha semplicemente vinto una logica di mercato? Guardi, io prima di tutto faccio parte sono presidente del Consiglio di Sorveglianza, quindi queste ultime notizie me le dà lei o le leggo dai giornali sul tema del finanziamento. Per quanto riguarda la domanda di carattere generale, rispondo di no, che io non credo che questa sia da considerare una sconfitta. Un'ultima domanda per il professore Bresciano. Un'infrastruttura come la Brebemi, che è fondamentale per Milano e Brescia, ha visto l'altro ieri l'assemblea deliberare un aumento di capitale che potrebbe vedere anche l'ingresso di Unicredito nella compagine azionaria. Secondo lei questo è indice di un nuovo clima tra Intesa e Unicredito e di una nuova attenzione anche da parte di Unicredito sul tema dell'infrastruttura? Ma io penso, non solo me lo auguro, ma penso che questo si verificherà. Quanto a questa infrastruttura, devo dire che io l'ho incoraggiato molto sin dall'inizio. Ecco, mi sono speso perché questa iniziativa si avviasse e andasse in porto, convinto che anche per una, direi, frequentazione quasi quotidiana di quella arteria, l'arteria oggi esistente, fosse assolutamente indispensabile che in una zona di traffico di questa importanza si realizzasse questa nuova struttura, infrastruttura, che oltretutto, come sa, in base a un project finance non costa nulla allo Stato. Quindi per le grandi infrastrutture del nord possiamo contare su un'alleanza tra Intesa San Paolo e l'Unicredit? Io credo che ci sarà un'alleanza, tra una convergenza di impegno di Intesa San Paolo con tutta una serie di altre realtà, e sono convinto certamente anche di Unicredit. Ed è veramente tutto anche per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Fabio Cantadori in regia. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, e buon fine settimana. Radio 24. La passione si sente.